inglesi sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Io ho detto, questi certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi noi giocavamo con un assetto di 4-1, come voi sapete, 4-1. Come Marchionne mette un pullover, il Maglione Bruno mette i Bermuda, insomma. Sì. Tutti convocati di Carlo Genta. Sei fuori. Grazie. No, non siete fuori voi, eh. Siete tutti convocati come ogni giorno. 800 24 00 24, numero verde. Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Dentro anche loro. Potrebbe essere fuori domani Allegri. E di questo parleremo. Potrebbe magari, a sorpresa assoluta, essere fuori da un girone che sembrava semplice la Juventus, dopo il terzo incredibile, in questo caso pareggio in Champions League. Non c'è limite all'ironia quasi caricaturale di questi giorni sportivi, anche perché il giorno dopo le sette croci sull'albo d'oro a Parigi, di cui abbiamo parlato a lungo ieri, viene presentato il tour numero 100. Tour numero 100 che partirà dalla Corsica e si concluderà di sera da casa di Ibrahimovic, perché ha preso casa a Versailles, 40.000 euro al mese, una sciocchezza, dalla Reggia di Versailles a Parigi, con fuochi d'artificio delle crono di Mont Saint-Michel, dell'Alpe d'Huez, percorsa addirittura due volte nella stessa tappa del Mont Ventoux il 14 di luglio, giorno della presa della Bastiglia. Lo ha presentato questa mattina Predom. Abbiamo anche la voce di Predom, sentiamolo. Ce tour est 100% français pour la première fois depuis 10 ans, mais ça n'est pas un tour replié sur lui-même, ça n'est pas un tour recroquevillé, ça n'est pas un tour étriqué, c'est le tour du premier pays touristique au monde, et c'est pour montrer partout que dans le Tour de France, il y a aussi le Tour de la France, et que le succès du Tour, c'est aussi tout simplement son cadre, son décor, ses beautés. Il Tour de France sarà più forte del doping di Kibara, ha detto il direttore del Tour dal 2005. Guardate un po' il caso, dal 2005, gli anni precedenti era invece assistente di Jean-Marie Leblanc, Prudhomme. Sarà più forte di Kibara e del doping. Bah. Vediamo ironia ovunque però oggi, anche nella noia mortale, ormai noia mortale, del ritornello che accompagna la Juventus in ogni occasione. Questo. Il top player deve essere un top player non a livello economico, deve essere un top player a livello calcistico. Parlare di top player, parlare di giocatori normali, io non faccio nessuna distinzione. Oggi possiamo dire che siamo vicini all'acquisizione di certi giocatori che hanno un profilo ben delineato. Poi il campo è che mi darà ragione se sono top o qualcos'altro. Alessio Tacchinardi, buongiorno e grazie. Buongiorno, buon pomeriggio. Bella questo ritornello, eh. Beyoncé sotto le varie voci che parlano di questo argomento ormai barbosissimo. La Juventus è il top player. Anche ieri sera ci siamo accorti che il top player non c'è. Mi sembra questo il tema, no? Beh, noiosissimo, perché comunque quello che poi dimostra sempre il campo, soprattutto quando sono partite complicate, partite difficili. Dimentichiamo che la partita con Napoli è stata risolta da un calcio piazzato da Cáceres, ma fino a quel momento la Juve aveva creato poco. La Juve quando ha pochi spazi, quando è un po' in calo fisico e non gioca la sua partita a 300 all'ora, ha bisogno di qualcuno là davanti che ti risolva la partita, un po' come tutte le squadre di alto livello. E purtroppo questa squadra ormai è un dato di fatto, ormai insomma già l'anno scorso con la pareggite durante l'anno sembrava passata, però ecco, quando la squadra è un po' in calo e manca il giocatore davanti, io ho avuto la fortuna in 11 anni a Juve di averne tantissimi, quelli che poi ti risolvono la partita. Müller su rigore ieri per il Bayern facendo fatica, Iniesta per il Barcellona, Cicharito Hernandez per il Manchester United, insomma siamo qui a scoprire l'acqua calda. Alessio, a me Giovinco continua a sembrare troppo leggero, non solo fisicamente, per le sfide muscolari della Champions League. E poi vicino a lui ci sono le porte girevoli, Quagliarella eroe in Inghilterra ieri in tribuna, poi c'è Matri, poi c'è Vucinic mezzo influenzato che guarda caso entra e segna come succede quasi sempre nella Juventus, tutto uguale. Ma guarda, tutto uguale, io penso, e l'ho detto non pochissimo tempo fa, Vucinic è diventato non un top player ma quasi. Anche il secondo giocatore me. Che la Juve non può fare a meno, perché il giocatore anche ieri debilitato dall'influenza, si vede che quando entra dà quell'imprevedibilità a questa squadra che senza gli inserimenti costanti e feroci di Marchise e soprattutto di Vidal diventa una squadra piatta. Entra Vucinic e dà qualcosa in più. Io penso che Conte nella sua testa pensava che un Vucinic Giovinco, pensando un Giovinco maturato da Parma, che può essere anche maturato, ma poi mi collego un attimo che facevi prima a te, Giovinco è un giocatore campione, ma la Juve la maglia pesa, la Juve deve avere fare qualcosa in più. Quella maglia non è lo stesso numero, ma l'aveva Alessandro Del Piero, un fuoriclasse assoluto. Quindi bisogna dargli tempo a Giovinco, ma secondo me anche dandogli tempo è questo giocatore qua che ti può fare una bella partita, ti può fare qualche bello spunto, ma non che ti prende in mano una squadra e te la cambia. Quindi il problema la Juve ce l'ha, penso che lo sappiano anche sia la dirigenza che l'allenatore. In Europa poi si vede tantissimo. Si vede tantissimo, mentre in campionato sembra non esserci competizione, Alessio. Perché il livello è basso. Sì, eh? Perché il livello non è altissimo. Ieri una squadra mediocre, però che gioca a un buon ritmo, la Juve ci sta che possa fare una partita, perché ci ho giocato tanti anni, Champions League e campionato logora, ti stanca. E quindi puoi andare a giocare questa partita, come ha fatto ieri la Juve, al 70%. Devi avere Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero, Inzaghi e compagnia che te la risolvono, poi diventa una passeggiata. Dopo la squadra si apre, diventa una passeggiata. Però ormai sono 2 anni che la Juve sta facendo qualcosa di straordinario con campioni, perché Quagliarella e Matri sono campioni, ma non fuori classe. Certo. Senti, per chiudere, come vanno le cose a Brescia? Dove stai allenando? Vanno abbastanza bene, per me sono tutte esperienze, io sono contento, sempre un anno nel bagagliaio di un allenatore, quindi sono contento. No, stiamo facendo grandissimi risultati, ma non mi interessa. Giustamente. Devo dire che è una squadra che non ha grandissima qualità in questo momento qua, ma grandissima voglia di migliorarsi. Quella è la cosa importante per un giovane, e quindi non facciamo facendo dei risultati eccezionali, ma io sono convinto che mi daranno soddisfazione il lavoro, perché poi un domani voglio diventare anche un allenatore di altissimo livello. Grazie Alessio. Prego. In bocca al lupo. Buona giornata. Buon lavoro. Io non sono d'accordo con discorsi di livello assoluto come quelli che fa Damiano da Roma via SMS 349-238-6666, ma la pochezza della Juve di ieri sera in Champions non dimostra che il calcio italiano a livello europeo è veramente scarso. Non siamo in un momento di fulgore, questo è evidente, ma la partita di ieri sera la considero fine a se stessa, la considero come una partita che conferma quanto abbiamo detto ora, abbiamo spiegato con Tacchinardi. Tutte le grandi squadre europee in questo momento, le grandi squadre europee stanno facendo fatica, l'hanno dimostrato ieri sera a Barcellona, appunto il Bayern Monaco, appunto il Manchester United che perdeva 2-0 in casa con il Braga, però a questi giocatori in grado di risollevarla. La partita di ieri sera dimostra che la Juventus questi giocatori non ce li ha, ma continua a ritenere. Allora, dopo Stamford Bridge potevamo dire una Juventus che vale le semifinali della Champions, perché le esagerazioni esistono sempre. Secondo me continua ad essere una Juventus che potrebbe valere le prime 8 d'Europa. Intanto stasera c'è il Milan che gioca a Malaga, domani potrebbe essere tutto diverso in casa rossonera. Devi essere un buon coach, devi saper gestire gli altri motivandoli, aiutandoli, rendendoli fedeli. Abbiamo parlato di questa mattina con l'allenatore, pensiamoci, deve pensare un po' l'allenatore come uscire da questa cosa. Se sei arrogante sei fuori. Non lo so, io credo che le risposte le debba dare l'allenatore. Io faccio l'amministratore delegato, per cui preferisco non rispondere. Il libro delle scuse con me a poche pagine. Chiaro ed ovvio che tutti questi gol su palle da fermo ci sono responsabilità dell'assetto difensivo. Facciamo lavorare l'allenatore, sennò che non è in discussione, no? E soprattutto non pensare di essere sostituibile. Beh, non prenderà Briatore, Milan non prenderà Briatore, però domani potrebbe, se dovesse perdere a Malaga, secondo me chiudere il ciclo di Massimiliano Allegri, perché siamo lì ad aspettare questo, in fondo è inutile che ci si nasconda, perché così finirà e lo sappiamo grosso modo tutti, ma soprattutto lo sanno perfettamente i giocatori, perché io continuo ad essere convinto che quando un allenatore viene messo anche pubblicamente, al di là delle difese d'ufficio, in discussione dalla società, quando i giocatori sanno che comunque un allenatore è a scadenza come un litro di latte fresco, allora il clima nello spogliatoio non può essere quello che c'è in una squadra in cui tutti si rema dalla stessa parte. Andrea Como, buongiorno, primo convocato di oggi, 800240024, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Grazie a lei. Io volevo tornare sul discorso Juventus, sono un abbonato, seguo spesso la Juve. Secondo me, sì, che manchi un giocatore forte lì davanti, che faccia la differenza, questo è chiaro, e ormai è anche noioso, come diceva lei, dirlo. Ma io ho l'impressione, guardando giocare la Juventus, a parte la partita col Chelsea, che la Juve, nel momento in cui è stata fatta l'estrazione del girone, abbia detto, bene, noi il girone lo passiamo. E mentalmente non abbia preso sul serio queste squadre, lo Shakhtar e Nogellan ieri sera. Lo dico perché... sarebbe un bel errore dopo chi torna lì per tanti anni. Allora, sarebbe io sono d'accordo che è un bel errore. Un errore che fa Cazzotti invece con la rabbia furibonda con cui la Juventus ha vinto lo scudetto l'anno scorso, senza sottovalutare niente e nessuno, nemmeno se stessa. Sì, però ascolti, io faccio questo ragionamento partendo da questo presupposto. La Juve è troppo più forte del Nordjylland, ma sì, troppo più forte. È inutile che stiamo qui top player, non top player. La Juve contro il Nordjylland vince in Italia con la sua panchina, sono sicuro, 100%. Siamo veramente più forti del Nordjylland. Sì. Quindi non è questione che manca il top player ieri sera, è la mentalità, è il modo con cui siamo andati in campo che non ha saputo. In effetti l'ha approcciata malissimo la partita la Juventus ieri sera. Poi però la differenza è che quando la approcci male, come ha fatto il Manchester United, peggio di così si muore, 0-2 in casa con il Braga, la approcci male ci può stare, poi però devi avere chi ti tira fuori dalle secche. Può essere stato un errore di sottovalutazione, però se poi non hai chi ti corregge questi errori, e torniamo sempre al solito discorso, diventa complicato. Allora, ci mancano, mi informano, 13 follower su Twitter per arrivare a quota 5.000. Cosa aspettate? Stefano, provincia di Treviso. Sì, buongiorno signor Zenta. Buongiorno. Niente, io ho sentito già le vostre discussioni circa il top player e chiaramente io sono tifoso juventino da 40 anni e sono perfettamente d'accordo. L'unica cosa che io volevo chiedere un suo parere è questo: un allenatore, secondo lei, visto la partita di sabato sera con il Napoli, che entra a Cáceres, che Pogba, e segnano tutti e due i gol, vanno su a fare una partita in Danimarca, al primo tempo sono sottotono perché hanno giocato sottotono, come fa un allenatore a non farli giocare, secondo lei, questi due, lasciando dentro Vidal, che abbiamo visto che era in difficoltà, e Isla, che secondo me, a parte un cross alla fine che forse è stato quello del pareggio, ma ne ha sbagliati 4-5. Questa è una domanda che io mi sono fatto ieri sera, volevo il suo parere. Sì, me la faccio anch'io perché io me li sarei giocati entrambi, anche sull'onda dell'entusiasmo. Attenzione, perché Isla è un giocatore che è appena entrato, ma è un giocatore che sarà importantissimo per la Juventus, come lo è Asamoah. È un giocatore chiaramente da recuperare, bisogna lasciargli campo, bisogna lasciargli spazio, bisogna lasciargli anche una partita sbagliata, come può essere quella di ieri sera. Però quando le cose nascono male può servire anche l'entusiasmo di chi ti ha risolto la partita con il Napoli 3 giorni prima. Questo è un ragionamento che trovo corretto. Giancarlo Salerno, e poi sentiamo, torniamo un attimo sul Milan. 5.000! Abbiamo vinto 5.000 follower, grazie agli ultimi 13. Giancarlo, dica. Salve, appena sono intervenuto io siamo arrivati a 5.000. Ha visto. Allora, Premetto, anch'io sono tifoso della Juve da 50 anni, non da 40, perché sono un po' più vecchietto. Per la verità mi sono sempre rifiutato di addentrarmi in valutazioni prettamente tecniche, cioè è giusto che entri in questo, entri in quello. Vuol dire, mi pare che Conte in un anno abbia dimostrato ampiamente di avere le capacità di decidere. Io volevo porre un'altra piccola questione, ma abbiamo visto che per trovare il top player di cui tanto si parla ci volevano 70-80 milioni, che in questo momento la Juve non ha, anche perché negli ultimi 4 anni ha incassato ben poco dall'UEFA. Per cui probabilmente in questo momento questo passo non lo poteva fare. Però a questo punto da juventino io mi chiedo, ma perché non è rimasto Del Piero, ma che poteva entrare gli ultimi 20 minuti in tante partite e dare Carlo, una mano? Lei è tifoso juventino da 50 anni, la capisco, però è stato ma ho capito, ma è stato giusto voltare pagina, poi sono stati sbagliati i modi. Del Piero mi sembra felice in Australia, festeggerà le sue 800 partite, che è un traguardo storico. Però era il momento di cambiare, perché sennò si rischiava di rimanere incastrati e incatenati lì, e se poi Del Piero non gioca è perché non ha giocato, è perché è entrato, è perché è entrato a un minuto dalla fine. Torno a ripetere, è giusto che anche sportivamente che questa storia si sia conclusa. Ma torniamo al Milan per sentire Allegri. C'è poco da parlare, c'è solo da cercare di fare dei risultati. È una partita difficile, una partita che credo che sia sulla falsa riga uguale a quella con lo Zenit. Troveremo una squadra molto tecnica dalla metà campo in su. Non devi arrenderti. Quando nella tua vita succede qualcosa che non è positiva e hai la forza di capovolgerla, allora sei un grande. Vediamo se ce l'ha questa forza, caro Briatore. Vediamo se Massimiliano Allegri ha questa forza, se il Milan ha questa forza e se il Milan ha voglia di difendere davvero con tutto quello che ha, con tutto quello che ha dentro il suo allenatore. Maurizio da Pavia, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo ritornare, stare sul discorso della Juve un attimo per dire che ieri sera secondo me mancavano due giocatori fondamentali, cioè mancava uno come Del Piero e uno come Trezeguet. Noi abbiamo comperato moltissimi attaccanti, ma nessuna punta vera è forte come Trezeguet. E io sono convinto anche che un Del Piero 37enne ieri sera avrebbe fatto la differenza. Grazie. A lei non posso che dare la risposta di prima. Del Piero e Trezeguet fanno parte del passato della Juventus. Ed è giusto che faccia in questo momento che facciano parte del passato della Juventus. La Juventus è giusto che guardi al futuro facendo i conti. Ha ragione l'ascoltatore di prima, perché per prendere i giocatori di cui si è parlato, tra acquisto ed ingaggio servono moltissimi quattrini, però sono i quattrini a fare la differenza nel calcio di oggi, lo sappiamo perfettamente, inutile che ci raccontiamo delle favole. Marco, provincia di Forlì, Cesena. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono tifoso del Cesena e quindi Juventus, Inter, Milan mi interessa il giusto. Sì. Quello che sarebbe bello, secondo me, sarebbe bello vedere un NBA del calcio in Europa. Cioè un campionato che sia solo europeo, una Superlega che sia solo europea. Penso di aver capito così ed è un discorso interessante perché ormai c'è una differenza talmente enorme tra le squadre che dominano i loro campionati e tutte le altre che potremmo essere maturi anche per un'esperienza di questo tipo. Io un top player per la Juventus l'avrei trovato, c'è da aspettare qualche annetto, 4 anni però può essere fatta. Usain Bolt, che ha ribadito che dopo le Olimpiadi di Rio, quando compirà 30 anni, è seriamente intenzionato a darsi al calcio, proprio ci crede fino in fondo, tifoso sfegatato del Manchester United, però vuole darsi al calcio. A me pare una pagliacciata tremenda. Allora, Miki su Twitter, io credo che Giovinco non sia un giocatore da Juve ed è stato riscattato solo perché forse dietro c'era l'Inter, non saprei, non credo sia stato riscattato per questo motivo. Pierfrancesco su Twitter, non so se si chiama top player, ma sicuramente manca uno che la mette dentro alla Juventus, che la sbatte in porta, è vero, ma serve uno che riesca a farlo in condizioni difficili, alla Ibrahimovic, da solo, inventandosi qualcosa, inventandosi la giocata. In parte questo giocatore è Mirko Vucinic, come si diceva prima con Alessio Tacchinardi, ne servirebbe un altro almeno altrettanto forte. Intanto avevo chiesto 13 followers per arrivare a quota 5000 su Twitter, ne sono arrivati 40 in un secondo. Ringrazio tutti quanti che prima evidentemente dormivano, ma cosa stavate aspettando? Adesso ne voglio altri 40 prima della fine della trasmissione, vediamo se ci riusciamo. 80024. Sei fuori chi? Tutti dentro, tutti convocati, no, sei fuori. 800 24 00 24, numero verde, forse era riferito a me, sei fuori, non lo so. Torniamo al Milan e ad Allegri, lui potrebbe essere fuori domani a quest'ora magari. Sì, è una settimana che non lo sento, con Galliani mi sento tutti i giorni, mi ci vedo tutti i giorni, credo che la società abbia chiaro della situazione, come l'ho chiara io, come l'ho chiara i giocatori, quindi... Devi provare qualcosa a te stesso, non agli altri. Io sono partito dal gradino più basso e ancora oggi sono ambizioso, arrabbiato, affamato. C'è chi non gradisce la voce di Briatore, pazienza. Ci scrive, la pazienza ha un limite, non so quale sia il limite alla pazienza, non so cosa ci sia di sgradevole in questo montaggio. Perché? Perché... come la Gazzetta oggi titola X Factor Juve, l'X Factor potrebbe essere domani al Milan. Tanto a Malaga, con mia grande invidia, c'è ovviamente il nostro amico corrispondente alla Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci, quella meraviglia di città che non ho mai visto. Ciao Filippo. Buon pomeriggio, sì, molto carina. Oggi poi purtroppo non c'è neanche il sole, che qua tipo che succederà una volta all'anno, però insomma... Sì. Sì, no, sarà un segnale, sarà un segnale, lo interpretiamo come gli aruspici, non c'è il sole sul Milan, c'è sempre il sole, oggi no. Vediamo, torna, oggi c'è anche lo sceicco, si rivede lo sceicco, attenzione. Magari potrebbe essere l'occasione buona per farci due chiacchiere. Sì, vallo a trovare. Ma non tu, gli emissari del Milan. No, i giocatori sicuramente, insomma, ci sono in ballo parecchi stipendi da pagare, quindi insomma la situazione è sempre economicamente tesa, però è il bello di questa squadra, che e poi secondo me grandi meriti a Pellegrini, che senza una lira, dice, ma quando l'ho intervistato l'altro ieri mi fa... Dice no, perché appunto, dice, guarda un po', ci scoppiano i problemi proprio nell'unico settore, nell'unico aspetto che pensavamo di aver risolto, quello economico. In effetti, se ti si compra, se la squadra la compra uno sceicco, puoi avere problemi sul campo, non lo so, poi di tifosi, però non di soldi. Ma certo, ma magari è arrivato con la valigia, È arrivato con la valigia, scende nello spogliatoio. Loro fanno così, ogni tanto arrivano, viene con la valigia e distribuisce il cash. Vediamo, però no, a me piace molto questa squadra perché ha del miracoloso. Perché? Insomma, non ci sono grandissimi nomi, e la situazione è quella che è, appunto economicamente, gli hanno venduto dei giocatori e loro... hanno perso solo una partita all'ultimo minuto con un autogol contro l'Atletico, il resto in Champions viaggiano a roba di 3-0, no? 3-0 allo Zenit, 3-0 all'Anderlecht, e poi giocano bene, è una bella squadra da vedere. Che tipo di calcio fanno, Filippo, tanto per inquadrare la partita con il Milan di questa sera? Questa è una squadra che diciamo fa possesso palla, grande velocità, palla a terra, grandissimi scambi, hanno questo Isco che è un po', no? la nuova speranza bianca del calcio spagnolo, 20 anni, cresciuto qua, è di Malaga, è poi andato a Valencia, l'hanno recuperato e diciamo combinano molto bene, sono tutti piccolini. Joaquin, che è il vecchio Joaquin, vecchio leone anche della nazionale spagnola, sulla destra, Isco in mezzo, A sinistra normalmente c'è Liseo che stasera farà il terzino perché manca Monreal, quindi mettono un giovane che si chiama Portillo, che non è il Portillo che è passato per la Fiorentina, certo. E poi davanti Saviola, e si scambiano molto, insomma, ed è un gioco molto molto piacevole, diciamo, si difendono attaccando, ancora in più avendo Liseo come terzino, sì. Lì probabilmente forse il Milan può trovare qualcosa, perché Liseo che alla Lazio proprio non l'hanno minimamente considerato, Ballardini non l'ha mai visto, è un ottimo giocatore, però ovviamente però è un'ala. E, insomma, oggi stasera farà il terzino e vediamo come va a finire. Però è una squadra che non si preoccupa, insomma, ha la leggerezza, diciamo, del miracolo, dei miracolati, per cui sì. Può permettersi di fare quello che, cioè, se anche perdono stasera. Guarda, per dirti l'atmosfera qui, ti racconto un aneddoto. L'anno scorso, alla fine del campionato, quando diciamo hanno conquistato il quarto posto, cantavano il prossimo anno giochiamo col Milan. Cioè, per dire il rispetto che c'è, poi non lo sapevano che il sorteggio li avrebbe premiati, li avrebbe esaudito la richiesta, però il rispetto che c'è per il Milan, per il suo passato, per, no, per queste sue grandi vittorie, la grande traiettoria europea, qua si sente, quindi questo potrebbe essere anche un altro aspetto che il Milan sì. Potrebbe sfruttare. Insomma, una squadra totalmente leggera, soprattutto se poi lo Sheikh si presenta con la valigia nello spogliatoio, contro una squadra in pieno psicodramma. Esatto, è molto appesantita, no? Da mille problemi, sì, sì. Però sai, l'esperienza conta, questi sono ragazzi, hanno quattro dovrebbero giocare quattro ragazzi spagnoli, tutti a metà campo, tra i 20 e i 22 anni. Lo so che adesso il Milan c'ha De Sciglio e Sharawi, quindi si sono ringiovaniti, però insomma comunque fa impressione in partite così importanti, non sono tanto tanto abituati. Lì forse il Milan può ancora prevalere. Sì. Intanto, per chiudere, Filippo, ieri sera hai visto cosa possono contare i top players, visto che il discorso barboso finché vuoi è questo: il Barça ha salvato la buccia con Iniesta, con i suoi grandi, insomma, perdeva in casa 1-0 con i Celtics, poi nel finale anche con fortuna, c'è da dire. Sì, fortuna che poi, diciamo, fortuna cercata, no? Non so quanti tiri hanno fatto, mi sembra siano arrivati a 900 passaggi, insomma, solito discorso. Voglio dire, il Barcellona sono 5 anni che gioca in un certo modo, avranno imparato le squadre europee a fermarlo o no? Cioè, no, è chiaro che adesso comincia a faticare, la sesta rimonta del Barça, però secondo me alla fine gli si chiede al Barça di vincere sempre, e più o meno lo fanno, e lo fanno con i top player. Ieri non ha segnato Messi, ci ha pensato qualcun altro, insomma, però insomma, per me resta una squadra straordinaria, continua a cambiare, cioè ieri sera c'era una difesa assurda, sì, mancava tutti, che normalmente questi difendevano con Alves, Piqué, Puyol e Abidal, nessuno, sì. Mancavano tutti, non c'è dubbio. Puoi anche prendere gol dal Celtic, che tra l'altro poi il Celtic non è tanto male come tutti pensano, perché il Celtic ha vinto a Mosca, insomma, non è con lo Spartak, non sì, è proprio è un inizio, chiaro, no, ma poi è un inizio di Champions League, come spesso accade, molto difficile da leggere, perché ieri abbiamo trovato, lo dicevo prima, lo United sotto 2-0 in casa con il Braga, poi si è salvato anche lì la buccia per un pelo, il Barra che con un rigorino di Müller ha vinto a Lille. Insomma, sono partite complicate un po' per tutti, queste di approccio alla di prima fase di Champions League, anche perché giustamente ci sono squadre che soprattutto nelle prime tre partite hanno grandi motivazioni e anche grande bisogno e voglia di denaro, come è giusto che sia, del denaro della Champions League. Filippo, grazie! A voi, ciao! Buon ciao, lavoro! Ciao. Salutaci Allegri, se lo vedi. Tanto Diego Confalonieri, schermidore, medaglia olimpica, nostro amico e tifoso bianconero, ha scritto su Twitter che la Juve vuole vincere campionati e fare turnover in Champions League. Grave errore. Diego, non credo sia così. Non si può fare turnover nel giardino d'Europa dove sei tornato dopo tutti questi anni. Non lo credo proprio. Non sono d'accordo con te stavolta. Franco da Bergamo. Buongiorno, senta, io non so se le hanno già fatto questa domanda altri ascoltatori, comunque io ieri sera ho visto la Juventus, sono tifoso juventino, e dopo aver visto la Juve ho visto tutte le altre partite che si sono disputate negli highlights di Sky. Ecco, la mia riflessione e la mia domanda è questa: ma da questa situazione, da questo comportamento della Juventus, non ne esce il nostro calcio, il nostro campionato a un livello molto più basso da quello che è il livello del calcio a livello europeo, perché veramente ieri sera la Juve, con grande dispiacere mio, è stata veramente sottotono rispetto a una squadra. Sì, non però, però il giorno dopo la partita di Londra con il Chelsea, cosa potevamo dire, Franco? Che eravamo tornati ad essere competitivi al massimo livello? Cioè, secondo me è vero che il calcio italiano, ma lo dimostra il ranking UEFA, lo dimostrano le tre squadre che ormai abbiamo in Champions League, lo dimostra il fatto che non abbiamo alcuna squadra, secondo me, Juventus compresa, in grado di pensare seriamente a vincere la Champions League. È un dato di fatto questo, però trovo che non si possa fare una considerazione così estemporanea, perché altrimenti il giorno dopo Londra avremmo dovuto dire: va bene, la Juve merita, dopo questo pareggio sul campo dei campioni d'Europa, può far strada, arrivare chissà dove. Quindi mi sembra una considerazione estemporanea, non generalizzabile. Silvio da Teramo. Sì, ciao, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. La mia domanda è questa: io sono juventino e il discorso sul top player, chiamiamolo così, anche se mi ha stufato da quest'estate, è giustissimo. La mia domanda è: non è che però tutti questi discorsi sul top player hanno cominciato a far vacillare la sicurezza in Matri, in Quagliarella? Perché non saranno fenomeni, ma nemmeno i giocatori che sto vedendo ultimamente. Cioè Matri non riesce più a stoppare un pallone. Sì, il discorso è anche che non si è ancora capito bene chi possa essere il titolare tra tutti questi. Allora, l'unico giocatore imprescindibile è Vucinic e siamo tutti d'accordo su questo punto. Giovinco non lo vedo ancora maturo per il livello europeo, lo diventerà, non parlo solo da un punto di vista fisico. Quagliarella è uno che può avere il colpo risolutivo, Matri è un giocatore profondamente diverso e ogni volta viene schierata una coppia offensiva differente ed è difficile trovare la chimica in questo modo. Addirittura Quagliarella ieri era in tribuna in una partita nella quale appunto il colpo risolutivo, il gol trovato dalla pura invenzione poteva anche servire. Allora, prima di Orazio da Pescara, voglio farvi sentire un nuovo allenatore del Genoa, Gigi Del Neri, che parla di Champions. Penso che abbiamo ottenuto un risultato pari, comunque penso allo scudetto vinto anni fa, perché non avevamo preparati a questo, la squadra è maturata molto ed ha ottenuto grandi risultati, meritando tutto quello che poi ha ottenuto sul campo. Così finiva Del Neri in Champions League con la Sampdoria, così ricomincia sull'altra sponda. Il passato non si cancella, mi sembra un dubbio, insomma, questo non si fa. Cioè, penso che rimarrà un anno importante, però adesso la scelta è stata diversa, sia da parte loro sia da parte mia. Io penso di aver scelto bene, perché conosco anche la tifoseria del Genoa, giocandoci contro, avendo contatti, e quindi la stimo e, secondo il punto di vista, ci sarà un bel feeling. Orazio Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno, io la chiamo, sono juventino e la chiamo per commentare le parole di Marotta, perché secondo me la situazione del top player è colpa sua, solo e unicamente sua. Marotta ha detto che non possiamo spendere 30 milioni per un giocatore. Bene, lui ne ha spesi 11 per la metà di Giovinco, quindi sarebbero 19. L'altra metà di Giovinco, se la lasciava al Parma, erano almeno 6 milioni, quindi ne sono 13. Prendendo Van Persie a 30 milioni, avrebbe venduto almeno 10 volte le maglie di Giovinco. Saremmo andati avanti in Champions League. Quanto prende Van Persie l'ingaggio? Sì, va bene, ma chi più spende meno spende. Cioè Van Persie avrebbe fatto passare in Champions League più avanti. Non dobbiamo commettere l'errore di stimare soltanto il prezzo del cartellino di un giocatore, perché sono giocatori che hanno ingaggi per le nostre squadre in questo momento improponibili e che vanno anche ovviamente ad alterare gli equilibri all'interno della rosa, quindi sono discorsi un po' più complicati questi. Sul fatto che la Juventus, che i soldi oggi facciano la differenza nel calcio per la Juventus come per tutti gli altri, che la Juventus debba pensare di strutturarsi in questa maniera, in modo da avere giocatori di nuovo al top se vuole puntare sul serio alla Coppa, beh, su questo siamo tutti d'accordo, 10 milioni l'anno guadagna Van Persie. Non so se al di là dei 30, dei 15 di Giovinco, dei 16, dei 6 di riscatto, eccetera, questo guadagna 10 milioni l'anno. Ti costa 30 e ne guadagna 10. E quindi 10 milioni, poi arriva quello Pirlo a bussare cassa, Buffon a bussare cassa, arriva perfino Chiellini a bussare cassa, perché sono discorsi anche normali questi. Secondo me il top player ideale per la Juventus, io continuo a pensare, sia Cavani. Però quanto costa? E lui mi guardi così, Giorgio De Luca, quanto costa? 60 milioni dovete portarci, griderà De Laurentiis o chi per esso. Allora, abbiamo scoperto, visto che stavamo parlando di soldi, abbiamo scoperto che degli insulti vergognosi a un giocatore, a un ragazzo morto sul campo, costano 50.000 euro, ed è una storia che mi fa veramente non venire i brividi, venire la nausea, è una cosa diversa. Ieri Dario Ricci ha intervistato il presidente del Verona, Setti, che l'altro giorno è stato nostro ospite. Verona Calcio, grande atto, non si oppone a questa decisione, anche se chiaramente la multa molto molto molto importante, perché poche volte ci sono andate molte così, ma ripeto, siamo consci di tutto quello che è successo e non ci fermeremo sicuramente qua, faremo, ripeto, le iniziative che stiamo finendo di mettere a punto, quindi sono dispiaciuto chiaramente per quello che è l'epilogo, ma d'altro canto me l'aspettavo e quindi, ripeto, ne prendo atto. Prendo atto anche del fatto che bisogna che un po' tutte le società diano una mano in questo senso, perché comunque ci sono continuamente provocazioni, non solo nei nostri confronti, ma in generale, che abbiamo visto in Napoli con la Juventus, ne vediamo sistematicamente su campi anche magari di Serie C, e quindi dove magari non ci sono neanche tanti interessi così, quindi insomma è un momento così di amarezza che passerà. Penso, io voglio pensare solamente alla parte sportiva, a sabato che ci aspetta un impegno importante. Dobbiamo proseguire e ricominciare a dare un esempio importante di quello che, ripeto, sono i valori che questa società ha e questa città ha. Insomma, alla vergogna mettiamo una pietra sopra, una pietra d'oro che vale 50 milioni, e pensiamo al campo. Se vogliamo vederla così e risolverla così, fate voi, non io. Mi dissocio da questa considerazione, da questa presa di coscienza. Giuseppe da Napoli. Salve. Io volevo intervenire sulla Juve in Champions, praticamente. Sono un tifoso, sì, della Juve. Sicuramente siamo dispiaciuti della mancata vittoria di ieri, perché la squadra era ampiamente alla portata, credo. Però aver regalato un tempo a quella squadra è vero e tutto quanto. Però se analizziamo le altre partite, con le sofferenze del Barcellona in casa, con le sofferenze del Manchester che vince dopo il 2-0 del primo tempo, io penso ci sia un livellamento generale di tutte le partecipanti alla Champions. Le classiche squadre scarse se ne vedono sempre meno, e le grandi che hanno delle difficoltà anche contro queste squadre piccole. Questo è quello che credevo io. Ma è così, ma Giuseppe, è così in questa prima fase di Champions League, soprattutto, ripeto, nelle prime tre partite del girone, con anche la fame di quattrini e di vetrina, che squadre che la Champions non l'hanno mai fatta hanno e posseggono, le partite diventano fatalmente e anche difficili in maniera interessante. Vediamo cosa fa il Milan stasera, vediamo se domani per i rossoneri ci sarà un futuro diverso. Torneremo a parlarne domani alle 14. Franco Piattarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo, allora sei un grande.